Allora, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Andiamo appunto a cominciare questo redazionale straordinario proprio per parlare, insomma, anche delle iniziative che questo fine settimana attraverseranno vari territori proprio sulla questione energetica e dei rifiuti, perché in questo paese, insomma, gli due argomenti vanno sempre più fondendosi, e quindi, insomma, c'è la necessità di mobilitarsi proprio per riportare al centro dell'attenzione quali sono i reali motivi per cui in questo paese si continua a parlare di discariche, inceneritori, impianti a biogas e a biomassa, e i rischi e le conseguenze che questo tipo di progetti stanno avendo sulla popolazione e l'opposizione che si sta sviluppando proprio a tutto ciò. Cominciamo con il breve comunicato che è stato preparato per la giornata di sabato 6 aprile, che è una giornata di lotta diffusa sui territori nel mese di marzo per tre sabati consecutivi, il 16, il 26 e il 30, da un capo all'altro dell'Italia sono stati chiamati tre cortei per opporsi alle grandi opere inutili: contro il ponte sullo stretto di Messina, contro il progetto di TAV in Val di Susa e contro le antenne MOUS a Niscemi. Come movimenti contro le nocività e le devastazioni ambientali di Lazio e Campania, abbiamo deciso di raccogliere l'appello congiunto di queste realtà e di chiamare una giornata di mobilitazione diffusa sui territori delle nostre regioni il 6 aprile. Gli appuntamenti che abbiamo definito sono al corteo di sabato 6 aprile, ore 15, a Piazza Mazzini, ad Albano Laziale, contro l'apertura del cantiere dell'inceneritore; il corteo a Malagrotta alle ore 15:30 a Largo Domus de Maria contro l'ipotesi di discarica a Monti dell'Ortaccio; e il corteo a Capua alle 9:30 di mattina a Piazza dei Giudici contro il progetto di costruzione del gassificatore. E poi, insomma, questa giornata di mobilitazione si dovrebbe concludere il 9 aprile a Napoli con un presidio sotto la Regione Campania. E quindi cominciamo appunto parlando di questi tre appuntamenti e magari cominciamo prima sentendo appunto i comitati che a Capua stanno costruendo l'iniziativa del 6 proprio contro il gassificatore. Faremo una corrispondenza e poi continueremo con le mobilitazioni ad Albano e Malagrotta per, insomma, questo primo pezzo di redazionale. Sì, abbiamo già in linea un compagno di Capua. Ciao Massimiliano, ci senti? Buongiorno a tutte e tutti, mi sento. Allora, ti ringraziamo per la disponibilità e, insomma, se vuoi farci una breve introduzione di com'è la situazione a Capua. Sappiamo che, insomma, è prevista la costruzione di un gassificatore nella vostra zona e che rientra nel piano regionale dei rifiuti, che appunto punta tutte le proprie forze su inceneritori e soliti ecomostri di cui sappiamo bene insomma l'impatto ambientale. Esatto, allora innanzitutto buongiorno, vado veloce sulla chiamata, diciamo così, tra Lazio e Campania, perché penso che già ne avrete parlato ampiamente. Con la Campania iniziamo da capo, perché anche se come movimento stiamo giocando d'anticipo da più di un anno e mezzo, perché in realtà ancora non c'è nulla di scritto, non c'è nessun documento della regione. Il gassificatore di Capua, che è un vero e proprio inceneritore, si presenta come, diciamo così, il primo vero e proprio impianto che verrà costruito dopo la cancellazione dal piano regionale dell'inceneritore di Ponticelli, quindi di Napoli Est. Abbiamo comunque come movimento giocato d'anticipo, perché anche se non c'era una gara d'appalto, anche se non c'era il bando, abbiamo iniziato a costruire questo movimento. Ad oggi, con tutte le difficoltà che si incontrano anche qua, comunque, diciamo, la lotta di Capua e del casertano intero è diciamo così quella più viva ad oggi in Campania. Anche per questo si è scelto tutti insieme di concentrare questo primo appuntamento proprio qua a Capua, e poi martedì chiudere queste giornate di mobilitazione diffusa sui territori sotto la regione a Napoli. diciamo subito che non ci interessa assolutamente ed esclusivamente la vicenda del gassificatore, e anzi il presidio di sabato andrà a determinare proprio questo. A noi ci interessa complessivamente come comitati, movimenti campani, che si battano ormai da un quindicennio, da un ventennio contro questo piano regionale, ci interessa costruire connessioni per far sì che il movimento in tutta la regione cresca e diventi forte, perché dal Salernitano al Beneventano al Napoletano e alla provincia di Caserta sono molteplici gli attacchi, sono molteplici i comitati e le situazioni che lottano, dai comitati contro le discariche e contro gli impianti, a quelli che si battono contro i roghi tossici, a quelli che si battono contro gli sversamenti di rifiuti industriali. Insomma, la situazione campana è molto molto complessa ed effervescente. Diciamo così che il presidio di Capua lo stiamo anche costruendo e mettendo in piedi con l'ottica di dare, diciamo, un punto di partenza per una connessione più ampia su tutto il territorio campano. Sì, diciamo che la Campania è un modello sia dal punto di vista delle imprese che speculano su il sistema rifiuti, sia per i movimenti che, insomma, guardano all'esempio campano, che è stato un po' il primo a dover far fronte a una situazione d'emergenza. Per quanto riguarda, andando un po' più nello specifico del gassificatore di Capua, l'avvio del gassificatore? C'è stato già un bando oppure ci sono già dei lavori iniziati? Ci puoi fare un piccolo quadro generale? Ma allora, diciamo che sostanzialmente, come già ti dicevo prima, abbiamo avuto il merito fondamentale del movimento No Gas è quello di aver saputo giocare di anticipo. Ad oggi non è stato fatto quasi ancora nulla se non dei carotaggi preliminari per vedere se il terreno fosse buono per accogliere questo tipo di impianto, ma la controparte, nello specifico il comune di Capua che vuole il progetto, la provincia di Caserta e la regione, non ancora hanno prodotto niente. Ci sono anzi dei problemi molto grossi legati alla proprietà del terreno. Non si riesce a capire se il terreno sia di proprietà dell'ASL o del comune di Capua, e su questo anche il movimento è stato bravo ad accendere i riflettori e a far sì che l'iter slittasse ulteriormente. E in realtà non c'è ancora nulla se non la volontà del capitalismo locale, armato e politico, di realizzare questo impianto, perché sappiamo bene poi, con tutta la storia dei CIP 6 e dei certificati verdi, che tipo di affari e che tipo di speculazioni si possa fare sui territori e quindi sulla pelle delle comunità. Il gassificatore in sé altro non è che un inceneritore vero e proprio, dove i rifiuti, invece di essere bruciati così appena buttati dentro, vengono lasciati a fermentare in alcune vasche, in alcuni silos, producono dei gas che verranno combusti per produrre energia elettrica e poi viene bruciata l'immondizia. A parte il discorso che crediamo che il trattamento termico dei rifiuti non sia la via da seguire, ma le vie da seguire siano altre, cioè la riduzione a monte, il riciclo e il riuso dei materiali, in Campania si pone anche il problema degli sversamenti di rifiuti industriali tossici e nocivi illegali, che vengono soprattutto dal nord, dalla zona del Veneto in particolare, e c'è il timore soprattutto da parte delle comunità che un impianto del genere, oltre a bruciare i rifiuti, possa bruciare anche questo tipo di rifiuti provenienti dalle aziende del nord. Siamo riusciti a costruire il movimento in un anno, anche se non c'era nulla di concreto, anche perché l'esperienza dell'agrocaleno della zona della provincia di Caserta, che è interessata almeno da un quindicennio, ha vinto almeno 3 grandi battaglie contro discariche e piattaforme per rifiuti, quindi c'è, diciamo così, una tradizione molto molto forte di lotte, e stiamo cercando questa tradizione, che è nata soprattutto nei comuni di Pignataro, di Sparanise, comunque piccoli comuni del casertano, di riversarla all'interno di Capua, con tutte le difficoltà che stiamo riscontrando, ma bene o male siamo riusciti a scardinare anche il velo di paura che c'era sulla popolazione, perché il connubio tra la politica e il capitalismo armato è visibile ed è palpabile sempre di più. Senti una cosa, Massimiliano, una curiosità che ho sempre avuto parlando dell'inceneritore di Capua. Di solito i comuni intendono costruire un impianto di incenerimento, poi si parte con una gara, quindi danno l'indicazione di voler costruire un impianto, si dovrebbe teoricamente partire con una gara d'appalto E poi le varie ditte presentano le loro tecnologie di incenerimento. Qua invece si è partiti subito con il comune che vuole costruire un gasificatore, quindi specificando la tecnologia, quindi praticamente specificando le aziende, esatto, dato che la tecnologia di gasificazione è posseduta, cioè i brevetti sono posseduti da pochissime, da quanto sappiamo, esatto, noi, da un'azienda solamente, che poi è la stessa, esatto, dell'inceneritore di Malagrotta e di Albano. Esatto, fare questo progetto, iniziare con questo progetto, abbiamo capito da subito che almeno in Italia c'è un solo grosso gruppo industriale che potrebbe dare i sapere, le tecnologie per costruire questo tipo di impianti, quindi almeno che non presentino le proposte alla gara, aziende che vengono da fuori Italia, su un piano europeo, addirittura diciamo così internazionale, l'unica azienda in Italia, ce n'è una di azienda che riesce a fare questo tipo di lavoro. Tra l'altro il commissario ad acta per la realizzazione del gasificatore, il preside di Natale della facoltà di ingegneria della SUN, della seconda università degli studi di Napoli, e l'ex assessore all'ambiente, la dottoressa Mastellone, anche lei professoressa della SUN ed esperta in gasificatori ed inceneritori, sono legati a doppio taglio, sia con il mondo universitario, con la SUN in particolare, sia con la provincia di Caserta, dato che la SUN, la seconda università di Napoli, è un, diciamo così, un potentato gestito da Zinzi, Domenico Zinzi, che è il presidente della provincia di Caserta. Le trame, diciamo così, di questa vicenda sono più che fosche, tanto è vero che nei primi periodi del movimento sono sbucati in città anche un gruppo di FIGAS, per la verità e per fortuna pochissimi, e soprattutto legati chiaramente ai connubi criminali e del capitalismo armato locale, alcuni dei quali, proprio i leader di questi movimenti di gas, sono personaggi conosciuti, perché sono stati condannati in vari procedimenti del processo Spartacus contro il clan dei Casalesi. Quindi diciamo così, la linea che congiunge capitalismo armato, criminalità organizzata e politica non è per nulla oscura e diciamo così, non agisce nelle retrovie, ma è chiara e palese agli occhi di tutti. Quindi addirittura, insomma, si creano comitati SIGAS appositamente per sponsorizzare questo, sì, tipo di tecnologie. Ci hanno provato durante il Consiglio Comunale aperto sulla vicenda del gasificatore, diciamo che però la consistenza e la compattezza del movimento No Gas è stata talmente tanto forte che questi qua se ne sono proprio scappati dal luogo dove c'era il Consiglio Comunale, perché erano in pochi e soprattutto diciamo personaggi non proprio raccomandabili, quindi credo che anche alla controparte non faccia tanto piacere cacciare fuori questi personaggi. Diciamo così, il movimento è riuscito in questi anni a creare immaginario, è riuscito a mettere in difficoltà la provincia di Caserta, tanto è vero che la dottoressa Mastellone, della quale parlavo prima, si è dimessa dalla carica di assessore provinciale all'ambiente a 2 giorni dal corteo di dicembre, del 15 dicembre, proprio in virtù della consistenza del movimento e dei bastoni tra le ruote che stiamo mettendo all'iter. Il bando di gara già doveva essere emanato per gennaio-febbraio, in realtà ancora si hanno notizie. Ci sarà un incontro il 10 tra ente provincia, comune e ASL per risolvere il problema sulla proprietà del terreno, e credo che sarà un altro appuntamento che il Movimento No Gas non si lascerà sfuggire, anzi andremo a trovare questi signori durante questa conferenza che faranno. Senti, volevo sfruttare insomma la tua presenza ai microfoni qui della radio per insomma aprire un po' una discussione che poi è stata attraversato anche le assemblee che abbiamo fatto in questi mesi, e mi riferisco in particolare alla volontà di tutti quanti di aprire questa campagna contro gli incentivi di varia natura che vengono dati proprio alla produzione di energia elettrica da impianti che poi alla fine usano come combustibile frazioni della spazzatura. E insomma, sempre più si fa evidente come gli interessi che stanno dietro a questo tipo di progetti non si muovono per raggiungere il pieno smaltimento e la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti, come tanto piace alle istituzioni parlare di questa cosa, ma è ormai palese che insomma è la corsa all'oro di questi incentivi, che una volta foraggiano inceneritori, quindi grossi progetti, e una volta foraggiano piccoli impianti tipo quelli a biomassa, e quindi forse probabilmente la necessità proprio di andare a colpire alla radice questo sistema economico che produce questi impianti e che poi è l'unico che giustifica questo, una così voracità da parte dei padroni rispetto a questo tipo di tecnologie, perché insomma abbiamo ben capito che gli inceneritori senza fondi pubblici durante la costruzione, durante il funzionamento, nessuno ha il coraggio di accollarsi il rischio di impresa di questi impianti. Esatto. Quindi bisogna insomma lavorare proprio su questo argomento, perché probabilmente è il modo migliore per tagliargli le gambe ai padroni della Manezza. Siamo d'accordissimo con questo. Questo è il regalo che ci hanno fatto all'epoca in cui nel decreto legge misero rinnovabili e assimilate, nelle assimilate sono andate a finire tutte queste porcherie, e diciamo così, anche da parte nostra è doveroso fare un'analisi sulla differenziazione del business capitalistico mafioso qua in zona dal business delle discariche, che appunto permetteva, con diciamo così, la scusa della discarica per risolvere l'emergenza rifiuti, di venire a sversare grossi quantitativi di rifiuti nocivi industriali dal nord, a quella degli impianti, appunto a quella dei CIP 6 e dei certificati verdi. Siamo assolutamente d'accordo che se questi impianti verrebbero completamente esclusi dai certificati verdi e dei CIP 6, nessuno più si accollerebbe i rischi d'impresa, nessuna banca presterebbe più i soldi per fare i progetti. È caduta la linea proprio insomma durante il commento, e magari proviamo a ricontattare Massimiliano al volo. Logicamente questo argomento, quello della contribuzione pubblica a vario titolo e in particolare alla produzione energia elettrica da impiantistica, ormai diventata la più varia, è sicuramente l'elemento centrale di scontro politico su cui bisogna concentrarsi per insomma evitare di ritrovarci di nuovo di fronte, sparsi per tutto il territorio nazionale, ormai centinaia di progetti nocivi e dannosi, e quindi insomma aggredire proprio su questa modalità del modello economico che appunto privilegia, finanzia, foraggia e regala, perché insomma stiamo parlando di regali veri e propri, soldi pubblici per l'avvio di progetti che poi portano dei laudi guadagni soltanto alle tasche di pochi, con sempre dietro la scusa del chiudere il ciclo dei rifiuti, evitare emergenze e comunque cercare di fare il bene della collettività, quando insomma abbiamo capito che questo bene della collettività non c'è assolutamente. I costi ambientali e sanitari ricadono sulle popolazioni, invece i profitti vanno tutti nelle tasche dei padroni. Massimiliano, ci sei? Sì, sono. Ok. Niente, no, stavo appunto continuando a parlare di questo aspetto veramente centrale della contribuzione pubblica CIP 6 certificati verdi, e insomma speriamo che nelle prossime mesi iniziative proprio contro questo tipo di politiche si riescano a sviluppare su tutti i territori. Sì, a questo proposito, se vuoi anche ricordarci l'iniziativa di domani a Capua. Sì, l'appuntamento è alle 9:30 in Piazza dei Giudici, che tra l'altro è la piazza dove c'è la casa comunale, il municipio, quindi diciamo così il primo ad essere investito da questa manifestazione, da questo presidio, sarà proprio la controparte più immediata, cioè il sindaco, e poi comunque si cercherà di praticare delle azioni in tutta la città, praticando degli obiettivi che sono quelli appunto legati alla controparte. Allora, noi ti ringraziamo per la corrispondenza, un in bocca al lupo per la manifestazione di domani, e ci risentiamo insomma anche poi magari mercoledì 9 per il presidio alla regione. Va benissimo, io vi ringrazio e saluto tutti e tutte, e nelle lotte sempre e comunque. Ok, ciao, grazie. Buona giornata. We'll be right back. torniamo in diretta. Abbiamo qui con noi due compagni dell'Assemblea Popolare di Malagrotta che ci parleranno, insomma, delle avventure, delle disavventure di quel quadrante di Roma. Sì, buongiorno a tutte e a tutti. Siamo qui appunto per raccontarvi quello che domani sarà il corteo che partirà anche da Malagrotta. Insomma, noi siamo alcuni compagni del territorio limitrofi della periferia nord-occidentale di Roma. Da circa quest'estate che in modo attivo abbiamo iniziato un intervento sulla Malagrotta per la questione della chiusura di quella che è la discarica più grande di Roma e l'apertura della nuova discarica di Monti dell'Ortaccio. Insomma, infatti abbiamo avuto a fine dicembre una brutta notizia che è stata quella della decisione del supercommissario Sottile del conferimento dell'autorizzazione integrata ambientale dell'AIA per la discarica di Monti dell'Ortaccio, che è stata la decisione più naturale. Monti dell'Ortaccio si trova infatti a 3 km da Malagrotta e è su un terreno di proprietà della stessa Colari, che gestisce l'impianto di Malagrotta, Colari, consorzio laziale dei rifiuti, di proprietà del magnate dei rifiuti del Lazio e anche del resto d'Italia, che è Manlio Cerroni. Scusate, un attimo. E insomma, il 27 dicembre è arrivata questa autorizzazione e da allora in poi abbiamo visto tutta una serie di dichiarazioni più che altro abbastanza falsate. Questa discarica sembra non volerla più nessuno, sembra non volerla più il ministro dell'ambiente. Una rincorsa a fare smentite dell'iniziativa del super commissario Sottile. Sì, lo stesso super commissario Sottile ha commentato, secondo me, una delle esternazioni più divertenti. Nel senso, circa un mese fa, quando è apparso un cartello di inizio lavori nell'area di Monte dell'Ortaccio, ha sostenuto che il mondo non smetterà mai di sorprenderlo. Nel senso che lui non aveva autorizzato alcuna discarica, ma insomma la carta canta, cioè la sua firma fissata il 27 dicembre per l'impianto di discarica di Monti dell'Ortaccio. E sì, e qui poi ancora cosa più emblematica, il ministro dell'ambiente che ha incaricato e ha dato i poteri al super commissario Sottile si è sbrigato a smentire le affermazioni dello stesso, dicendo che in realtà non aveva in quel periodo i poteri necessari a fare ciò. Ma insomma, noi abbiamo qualche dubbio, probabilmente queste dichiarazioni sono il frutto dello scontro che c'è durante la campagna elettorale, che insomma si è ormai avviata da parecchio tempo nel territorio comunale di Roma, e proprio in quel quadrante i voti, come verranno indirizzati, dipende molto insomma dalle iniziative che si fanno contro il progetto di discarica in quel territorio. E quindi insomma cercare di non interferire, oppure di interferire il più possibile con la competizione elettorale, ha prodotto anche tutta quella sequela di polemiche surreali che ci sono state subito dopo la pubblicazione del cartello. Lo stesso sindaco di Roma, Gianni Alemanno, un paio di settimane fa, durante una conferenza nel municipio del Divinamore, anch'esso interessato da ipotesi di discarica, addirittura ha osato dire che se la raccolta differenziata entrasse a regime non ci sarebbe proprio bisogno di una nuova discarica nel territorio comunale di Roma. Ha tenuto a specificarlo. Insomma, questa ambiguità e l'ambiguità di questa dichiarazione lascia il tempo che trova, perché logicamente siamo in campagna elettorale. Però insomma, qualcosa di vero c'è. Se si procedesse in un'altra maniera, probabilmente di mega discariche e di impianti correlati ci sarebbe sempre meno bisogno. Quindi forse un pizzico di verità c'era, ma tutta strumentale, appunto, proiettata sulla competizione elettorale. Sì, che poi la competizione elettorale gioca sempre sul fatto di dire no, qui non la facciamo perché chiaramente i voti vengono raccolti in quel territorio, ma non viene mai poi mosso un discorso più generale su quale debba essere invece una gestione ragionata del ciclo dei rifiuti a monte proprio. E per quanto riguarda lo stato attuale delle cose, Monti dell'Ortaccio è della settimana scorsa la sentenza del TAR, per cui i lavori sono autorizzati, però non è ancora autorizzato il conferimento dei rifiuti in discarica, il che in altri termini vuol dire te lo autorizzo tra un paio di mesi non appena hai fatto il buco. Tra l'altro la cosa sempre particolare di questi lavori è che è prevista una durata totale per il termine dei lavori di 610 giorni, quanto, stando a quanto diciamo aveva detto Sottile, la discarica doveva essere soltanto provvisoria e della durata di 2 anni, per cui un'incongruenza che lascia tutti un pochino sbalorditi. In questa situazione nel frattempo il cartello è scomparso, i lavori non si vedono, i camion sono stati spostati lontano dagli occhi e dal cuore degli abitanti della zona, dopodiché nel senso aspettiamo che probabilmente non appena la manifestazione di domani sarà finita o magari non appena sarà chiusa la campagna elettorale questi lavoratori abbiano inizio, anche perché l'autorizzazione effettivamente è stata data. Eh sì, insomma, sulla questione della fantomatica discarica temporanea di cui si è parlato per più di 2 anni per sopperire alla chiusura di Malagrotta, nel frattempo si cercava una soluzione definitiva, insomma, su questa discarica temporanea ha gettato fumo negli occhi nella popolazione per parecchio tempo. Poi, da quello che abbiamo capito, come soluzione temporanea a questo all'esaurimento di Malagrotta, l'iniziativa del ministro Clini è stata quella di dirottare parte dei rifiuti di Roma nelle altre discariche della provincia. E più tardi, insomma, cercheremo di documentare l'iniziativa di questa mattina a Colfelice, perché proprio questa mattina, a seguito del commissariamento dell'impianto di Colfelice ad opera del super commissario Sottile, sono cominciati i trasporti da Malagrotta a Colfelice dell'immondizia di Roma e sono cominciate anche le proteste e insomma un po' tutti i giornali danno la notizia anche di tensioni con le forze dell'ordine. Sì, infatti a quanto risulta dalle notizie emanate un'ora fa pare che sono già stati bloccati i primi camion che stanno tentando di arrivare e sversare a Colfelice e insomma più di un centinaio di persone si trovano davanti al sito della SAF per impedire l'accesso dei mezzi dell'AMA. E questa cosa era già stata annunciata da Sottile qualche giorno fa, per cui aveva insomma stretto il pugno e aveva detto che per forza di cose questi rifiuti sarebbero giunti in provincia. Eh sì, insomma, la discarica temporanea non è partita, però è partita questa iniziativa che rischia insomma di mettere nei guai le piccole discariche delle altre province della regione e non risolvere assolutamente il mega disastro che invece si va compiendo nel quadrante della Valle Galeria. Sì, tra l'altro poi anche in questa cosa Malagrotta comunque non è estranea, perché a quanto dicono pare che i rifiuti verranno portati in provincia, trattati e poi riportati in città. Quindi c'è questo processo molto, non so, improbabile, per cui si scarrozzano rifiuti trattati, non trattati, semitrattati un po' per tutto il Lazio. Con sì. Costi dei carburanti che insomma possiamo immaginare, visto che Colfelice non è proprio dietro l'angolo. Sì, diciamo che questi costi cercano di coprire il fatto che altrimenti c'è una multa da pagare di 1 milione di euro al giorno, per cui cerchiamo di portarli in giro dove qualche impianto di trattamento c'è. Poi trattamento dei rifiuti, insomma, un argomento bello lungo, non vuol dire proprio il rifiuto scompare, diventa una cosa carina e fiorita. E dopodiché questi rifiuti trattati tornano in queste discariche, che quindi ci dovranno stare. Cioè, la conferma dei lavori a Monti dell'Ortaccio è effettivamente una dichiarazione del fatto che discariche continueranno a essere fatte anche non solo a Roma ma anche vicino. Eh sì, e quindi insomma, però insomma, per la prima volta notiamo che l'iniziativa popolare si sgancia nel quadrante di Malagrotta dall'influenza delle forze politiche e probabilmente questo riuscirà a dare più forza alle iniziative dei comitati, che non dovranno più sottostare ai diktat partitici e magari invece incentrare e concentrarsi sulle criticità e i problemi che veramente producano un inceppamento e riescano a mettere i bastoni tra le ruote a questo meccanismo che proprio nel quadrante di Malagrotta ormai da più di 30 anni ha prodotto lo sfacelo che insomma è sotto l'occhio di tutti per chi va in quella zona. E purtroppo l'iniziativa dei partiti è pesantemente, la responsabilità di questa situazione è pesante, e quindi insomma c'è proprio tutta la necessità di sganciarsi da queste pratiche, di non protestare contro le discariche solo a ridosso delle scadenze elettorali, ma di dare una continuità che sia insomma quella o il grimaldello per buttare fuori Maglio Cerroni e tutte le sue aziende da quel pezzo di territorio. Sì, sì, no, su questo un po' la situazione a Malagrotta, nella Valle Galeria e dintorni, sì che ci siano una miriade di comitati, presidi contro la discarica, ma ognuno ha le dipendenze del partitino di turno o del politicante di turno, perché il tutto si muove in dinamiche veramente quasi di paese, in quello che non è un paese, poi perché tutta la zona della Valle Galeria non ha neanche la piazza, la chiesa, il luogo di ritrovo come possono avere altri paesi in provincia, è il frutto di un'enorme speculazione edilizia fatta di case spontanee oppure di una parte di villette o più belle per anche una parte della Roma Bene, che si ritrovano a vivere tutto intorno alla cintura di quella che è appunto la discarica più grande di Roma. Più grande, sì, la discarica più grande di Roma è più grande d'Europa. Da questo, insomma, noi abbiamo promosso un'assemblea popolare della Valle Galeria che raduna una serie di liberi cittadini, nessuno che fa parte di partiti, e appunto abbiamo promosso questo corteo insieme all'Assemblea Nazionale, insieme al Comitato Noince di Albano, che sfiderà in contemporanea domani dalle ore 15. Coordinamento contro l'inceneritore d'Albano. Scusate, infatti anche su quello i nomi sono... E niente, il nostro tentativo appunto è quello di metterci noi in prima persona, insieme alla gente residenti là del territorio, a lottare in prima persona senza interessi di sorta, senza affidarci o delegare al partitino, al politicante di turno, la difesa della nostra salute e del nostro territorio. Sì, aggiungo, forse vanno un po' sottolineate delle difficoltà anche di intervenire su un territorio come questo, che giustamente dicevamo è fortemente disgregato, ma proprio geograficamente, nel senso che le case distano tanto l'una dall'altra, a meno dei piccoli agglomerati di Massimina e Piana del Sole. E difficoltà che effettivamente sono presenti, nel senso che questa assemblea popolare sta muovendo adesso i suoi primi passi, si è vista sinora 3 volte cercando nelle ultime di organizzare questo corteo, che anche questo sarà una scommessa, però in qualche maniera piano piano sta costruendo su quel territorio una, diciamo, una legittimità, si sta costruendo un riconoscimento da parte degli altri cittadini che lo abitano, riconoscimento che all'inizio non era affatto scontato, che non ci aspettavamo in qualche forma e che effettivamente sta mostrando alcuni successi. Non parliamo sicuramente di una situazione ideale, nel senso che in ogni caso si tratta di un territorio vasto con cui è difficile approcciarsi, nel quale è difficile riuscire a parlare con tutti e nel quale restano ancora numerosi residui di teorie. No, qui però se vi spostate un po' più là verso Maccarese, insomma, non mi disturba così tanto. Per cui, nel senso, adesso vedremo, puntiamo molto su questa giornata perché in qualche maniera in una fase di campagna elettorale in cui dal PD che sta remando contro con tutte le sue forze a altri piccoli aspiranti assessori che cercano di smontare questa giornata dicendo che è inutile manifestare in questo momento perché sia inutile me lo devono dire loro, e in ogni caso crediamo che sia una giornata importante che verrà poi successivamente riconosciuta, che inizia anche a smuovere un po' questo territorio dove appunto è tutto sempre nato sulla spontaneità e l'estemporaneità del cartello che veniva messo o non messo, ma proprio questa estemporaneità non ha mai permesso poi di bloccare realmente un progetto, tant'è che è un territorio martoriato da una discarica, una raffineria, un paio di inceneritori, un CIE, qualunque cosa di brutto vi possa venire in mente là la trovate. E quindi insomma un tentativo di cambio di rotta che però insomma è fondamentale, insomma noi abbiamo ricordato da questi microfoni come nel quadrante di Albano fino a non pochi anni fa ci si viveva proprio la stessa situazione di frammentazione e clientelismo che aveva prodotto il continuo ampliamento di quella discarica, e insomma soltanto le lotte auto-organizzate riescono a rompere il sistema clientelare e il fumo la cappa oppressiva che invece permette a questi signori di continuare ad andare avanti con i loro progetti, con i loro intenti e con i loro profitti. Sì, è per questo che invitiamo tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici a partecipare al corteo di domani a Malagrotta e a sostenere numerosi questa iniziativa, questo primo passo di questa assemblea. E chiaramente chi vuole può anche scegliere di andare al Bano, insomma, domani non c'è da rimanere a casa. He's the guy who's the talk of the town with the restless gun. Don't you bother to fool him around. Keeps the vomits on the run, boy. Keeps the vomits on the run. You may think he's a sleepy type guy, always takes his time. Soon I know you'll be changing your mind when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use a gun. Non prevedono assolutamente. We'll be right back. torniamo in diretta parlando sempre della giornata del 6. L'altro appuntamento, il terzo appuntamento che c'è nella giornata contro discariche di inceneritori. Il primo, ricordiamo, è a Capua in Campania alle ore 9:30, il secondo a Malagrotta alle 3:30, sempre più o meno allo stesso orario. Ad Albano, a Piazza Mazzini, è stato indetto un corteo contro l'apertura del cantiere dell'inceneritore e anche contro la discarica che giace lì da 30 anni e nessuno sembra volerla toccare. Eh sì, perché come abbiamo raccontato da questi microfoni, con la fine della legislatura Polverini sono state emanate delle determine che accelerano e pretendono l'avvio del cantiere in quel quadrante. E fortunatamente per ora queste determine non hanno avuto seguito, ma rimane altissimo l'allarme per l'avvio di un cantiere nocivo e distruttivo. Poi, tra l'altro, nella settimana passata, precisamente il giovedì 28 marzo, c'è stata questa udienza al TAR dove il comune di Albano si opponeva alle determine regionali. Come avevamo denunciato dai microfoni di Radio Onda Rossa, l'iniziativa del comune di Albano con il suo poco raccomandabile studio legale è stata un buco nell'acqua. La sospensiva degli atti regionali non è stata concessa. Questo diniego non ha prodotto nulla, ma sui comunicati del comune di Albano si lamentava una sconfitta e il rischio di un avvio del cantiere, rimandando e rigettando la palla alla Regione Lazio e al suo presidente Zingaretti. Evidentemente il sindaco d'Albano non ha per niente l'intenzione di fare un'informazione chiara su quello che combina con il suo studio di avvocati. Gli è stata negata una sospensiva, al coordinamento contro l'inceneritore ne sono state negate decine di sospensive, ma questo non vuol dire che il cantiere parte immediatamente, al contrario da quello che ha cercato di far passare dai propri comunicati sul sito del comune di Albano. Sì, un infatti... comportamento schizofrenico che denuncia invece un lassismo ai limiti della connivenza con questo personaggio. È evidente che non si vuol far uscire il marcio che c'è sotto la discarica di Albano. È evidente che della caratterizzazione interna, strumento necessario e inderogabile per qualunque revisione dell'AIA di qualunque progetto, non c'è nessuna intenzione di portarlo a termine. La caratterizzazione di quel sito è un argomento scomodo che bisogna cercare di non citare e nascondere continuamente, e tant'è che al TAR non è stata portata nessuna proposta e nessuna caratterizzazione interna, e quindi non hai assolutamente gli elementi per attaccare le controparti su un argomento così delicato. E quindi, insomma, se si va al TAR senza avere gli argomenti per attaccare, è evidente che si va lì per fare una figura di merda e basta. Sì, ricordiamo infatti che il cantiere dell'inceneritore non è ancora partito, ma certamente non grazie al sindaco, ma grazie al fatto che i contributi CIP6 all'inceneritore d'Albano ancora saltarono nel 2008 e ancora sono nei sogni degli angeli. E infatti, tant'è vero che Manlio Cerroni si è largamente lamentato col ministro Clini e adesso sembra che se la stia iniziando a prendere, stia indirizzando le sue minacce verso il nuovo presidente della regione, Zingaretti. E magari di questo ne parleremo dopo. Infatti, proprio di questi di oggi, una simpatica lettera misto minaccia rimprovero di Manlio Cerroni, ma insomma la leggiamo dopo. Ok, la leggiamo dopo. Allora adesso ricordiamo l'appuntamento ad Albano, ricordiamo tutti gli appuntamenti nuovamente: a Capua alle ore 9:30, in Campania, ad Albano alle 15, alle 3:30 in Piazza Mazzini, e Sì, a Malagrotta, in largo Domus de Maria, alle 15.30, fondamentalmente alla chiesa di Ponte Galeria, alla fermata del trenino della Roma Fiumicino Ponte Galeria. E quindi... Eccolo, serpe in seno, caccio studio e molotov, carica lo stereo, vostri Robocop, non tratto con l'impero e faccio volentieri a meno del tuo jackpot. Eccolo, serpe in seno, caccio studio e molotov, carica lo stereo, vostri Robocop, non tratto con l'impero e faccio volentieri a meno del tuo jackpot. Canta mio diva, dell'ira funesta di chi sparge l'odio al vento per raccogliere tempesta, di chi resta senza lacrime e non aspetta il salvatore, del tragico tramonto verso il nulla, creatore, Itaca è lontana, ma non temere l'estrigon, il peggio per l'impero, e che ieri il pessimo, una marea di scheletri nascosti nel tuo armadio, bastoni e ferri al cielo, contro la vostra gladio, godi la felicità che è la tua, sì è l'unica, finché la serpe in seno non prova a capovolgerla, stringila tra le mani e in un attimo ti accorgi che chi rompe paga e non ti lascia neanche i cocci, stacci, zì. Stai stringendo il nulla, una culla di miseria, un inferno nella folla, insetto nada insisto, tutto il resto è noia, sbrigati a sparare, ad armare la tua gioia, nitro, grinder, a.k.a. l'estrigon, lessico dannato, imparato al classico per risputarlo in faccia, l'elite in doppio petto, con la puzza sotto al naso, perché il corpo putrefatto, c'ho la scorza dura, puoi provare anche a colpirmi, a fermarmi, è rabbia pura che vi lascia inermi, abituato a schiaffi il cuore, morsi di tarantola, la vita mia spiandola, ti sembrerà ben candida, mi ruoto sino giugulare aperta, una mara scoperta, a morte la tua scorta, se la strada si rivolta, giornata giù il serri, onora chi diserta, onora chi diserta. Eccolo, serpe in seno, caccio studio e molotov, carica lo stereo, vostri Robocop, non tratto con l'impero e faccio volentieri a meno del tuo jackpot. Eccolo, serpe in seno, caccio studio e molotov, carica lo stereo, vostri Robocop, non tratto con l'impero e faccio volentieri a meno del tuo jackpot. Fuori come squali, me ne frego del tuo jackpot, ormai antisociali, tu sul social network, fuori dal contesto di cocco ed escort, finti narcos, import export. E torniamo quindi in diretta in questo approfondimento su le nocività ambientali e le manifestazioni che sono state indette per la giornata di domani. Torniamo appunto con la lettera che Manlio Cerroni ha scritto a Zingaretti e per conoscenza a varie altre autorità, tipo il ministro Clini, eccetera, eccetera, in cui, come al solito, vanta dei suoi contatti con alte cariche, racconta di aver incontrato il ministro Clini ed il commissario Sottile in un incontro paraistituzionale, una cosa similloggia a P2, più o meno. Chissà che cosa si sono detti, chissà se mangiavano coda alla vaccinara. E in questa lettera Cerroni pretende da Zingaretti che forzi i cronoprogrammi e quindi si prenda carico di far partire i lavori nei gassificatori di Malagrotta d'Albano. Dice di ultimazione dei lavori, forse è vero per Malagrotta, ma certamente ad Albano si tratterebbe di iniziare il lavoro all'inceneritore. Ricordiamo un po' la situazione: a Malagrotta sono stati spesi circa 200 milioni di euro di contributi pubblici. Ah, non so i soldi dei Cerroni. Dire proprio di no, sono i soldi nostri. Tirati fuori da una tassa del 7% sulla bolletta elettrica. Quindi sono stati spesi questi 200 milioni per uno scassone che a un certo punto si è fermato e nessuno sa perché. Sono stati licenziati tutti i lavoratori e c'è questo coso che è abbastanza fermo. Cerroni pretende di avere altri 200 milioni per l'ultimazione della seconda linea, ma quindi per aggiustare l'intero affare. E vorrebbe anche circa 400 milioni di euro per l'inceneritore d'Albano, quindi sempre un impianto a gassificazione che probabilmente esploderà anche lui quando ne avrà tempo. Qualora dovesse essere costruito, noi faremo di tutto perché non venga costruito. Quindi questo pretende Cerroni da Zingaretti, quindi che inizi a lavorare per lui anche egli, che la prossima amministrazione anch'essa si metta a lavorare per Manlio Cerroni che ha già forzato la mano sulla questione rifiuti nel Lazio, tentando di aprire la nuova discarica di Monti dell'Ortaccio e anche ipotizzando un'idea di discarica sulla Laurentina. Beh, è evidente che insomma l'iniziativa di Mario Cerroni di questi giorni sembra più anche una risposta ai movimenti che sabato scenderanno in piazza per dire di no a Monti dell'Ortaccio e all'inceneritore di Albano. E a quello di Capua, che a occhio probabilmente sarà costruito da aziende a lui vicine, in quanto la tecnologia a gasificazione sappiamo chi la gestisce in Italia. E quindi, insomma, si sente in dovere di rispondere agli attacchi che fanno i movimenti. Poi continuiamo a non capire come si pretenda di chiedere soldi a destra e a sinistra per impianti che dovrebbe far funzionare lui. Se tanto ci tiene a questi impianti, è ora che i soldi comincia a metterceli lui di tasca sua e farla finita con le regalie e le minacce. Insomma, Zingaretti dovrebbe sbloccargli i cronoprogrammi, dovrebbe garantire ed essere garante, così che le banche aprino le linee di credito necessarie per avviare tutta l'operazione, ma è evidente che al punto in cui siamo arrivati pare molto difficile che un'operazione del genere vada in porto. Infatti poi nella sua lettera Mario Cerroni cita quest'altra geniale iniziativa del ministro Sottile di conferire il CDR temporaneamente nei cementifici. E quindi, insomma, di male in peggio si cerca di gettare altro fumo negli occhi. Prima si chiede soldi per finire i gasificatori, poi si dice però poi nel frattempo il CDR lo portate nei cementifici. Ma come, scusa, ma Legambiente ce lo voleva bruciare il CSS nei cementifici? Allora è bene se Legambiente vuole fare questo, no? Eh beh, Legambiente vuole fare un sacco di cosine nocive per la nostra salute, lasciamo perdere, perché stiamo parlando di un'associazione che dire padronale è dire poco, di cui approfondiremo probabilmente tra poco, tra breve. Comunque torniamo alle soluzioni ipotizzate per la gestione rifiuti. Sappiamo che sulla Regione Lazio pende una multa di circa 1 milione di euro giornalieri da parte dell'Unione Europea, in quanto la Mondezza di Roma viene tritata e buttata in discarica senza troppi problemi. E quindi il commissario Sottile ha pensato bene di utilizzare gli impianti in giro per il Lazio. Già ad Albano si hanno un sacco di camion ogni mattina che arrivano a sversare i rifiuti di Roma, e adesso pare che sia partita anche si sia aperta la partita anche a Colfelice. Eh sì, insomma, l'abbiamo detto prima, tutte le testate giornalistiche danno notizia di tensioni con la polizia davanti al sito della SAF a Colfelice, proprio per l'arrivo dei camion. È evidente che, insomma, il lavoro di trattamento dei rifiuti che non riesce a Roma, non si capisce come si riesca a fare nei piccoli impianti delle altre province. Mario Cerroni ce lo deve proprio spiegare, come non riesce a trattare i rifiuti a Malagrotta e invece come riesce a trattarli magari nel suo piccolo impianto di Albano Laziale. È evidente che è solo una mossa propagandistica per cercare di sviare la comunità europea e non appiopparci questa multa che poi peserà in maniera considerevole sui bilanci regionali e probabilmente sarà una bella mazzata per le nostre tasche, proprio pure alla luce della nuova tariffa dei rifiuti che è pronta in arrivo per l'estate. Sì, l'ultima delle news che abbiamo, rapide news sulla Mondezza. Quindi abbiamo parlato della lettera di Cerroni a Zingaretti, della situazione a Colfelice, di cui vedremo gli sviluppi e sicuramente torneremo ad approfondire nelle prossime trasmissioni di Impatto. Adesso andiamo a parlare di una piccola buona notizia, Guidonia. Eh sì, perché a Guidonia erano previsti due impianti a biomassa di varia natura, due impianti collocati al confine con i comuni di Fontenuova insomma, sono parecchi mesi che i comitati della zona si sono mobilitati contro questi impianti. Gli impianti, piccoli impianti a biomassa per la produzione di energia elettrica, impianti di proprietà e proposti da piccoli imprenditori della zona, insomma le proteste dei cittadini che avevano tentato di bloccare i progetti in conferenza dei servizi senza riuscirci, che avevano chiesto alla provincia e quindi a Zingaretti di stoppare i progetti senza successo, sono passati alle vie di fatto e hanno cominciato a fare manifestazioni sotto casa degli imprenditori che proponevano i progetti. Beh, la settimana scorsa questi imprenditori sono andati in provincia e hanno ufficialmente ritirato i progetti. Quindi, insomma, un modo di operare abbastanza diretto che ha prodotto un risultato concreto, quello del ritiro dei progetti. E, insomma, le manifestazioni sotto casa probabilmente non fanno tanto piacere, tutto un paese che non ti rivolge più la parola non è una cosa bella, e quindi ci si è, insomma, si è preferito rinunciare a questo business, che però invece nel resto della regione prevede un bel po' di progettini diffusi sul territorio, e insomma mo ne andremo a parlare, perché questo poi sarà l'argomento delle prossime settimane, perché si intreccia in maniera purtroppo molto ambigua con la proposta di legge di iniziativa popolare che il 14 aprile comincerà, di cui comincerà la raccolta firme. Radio Underwater, the alternative station in Rome, 87.9 FM. I'm packing up my memories and I'm gonna move all out of your heart. Turning in my keys and I'm gonna move. I'm not. E allora, sempre in onda dai microfoni di Radio Onda Rossa per questo spazio redazionale sui rifiuti e per promuovere le manifestazioni di domani pomeriggio. Insomma, argomento complicato che per forza di cosa si intreccia e intreccia tutti i territori. Le figure che sono coinvolte sono le più varie, tra supercommissari, ministri dell'ambiente e imprenditori di qualunque natura, e insomma, se per non scordarci dei nostri politici, sono tutti coinvolti e tutto il meccanismo è ampiamente intrecciato. Insomma, dove si muove dove c'è un minimo movimento da una parte, ci sono le conseguenze su tutto il territorio regionale. Questo ormai è evidente sotto gli occhi di tutti, ma insomma, speriamo di aver fatto un quadro abbastanza chiaro di questa vicenda, che è complicata, sì, ma che insomma è fondamentale per avere e ripristinare un rapporto di forza degno per insomma uscire dall'impasse e ristabilire una situazione sanitaria e di vita, di dignità sui territori colpiti da discariche inceneritori. Insomma, speriamo di essere riusciti a farvi capire insomma quello che sta succedendo nella nostra regione. Chiudiamo questo spazio con un altro capitolo di questa saga, che è quella dei rifiuti, che è insomma una legge di iniziativa popolare di cui sta per cominciare la raccolta firme. Comincerà domenica 14 aprile. Siamo andati insomma a spulciare questa legge per capire il succo e capire se ci sono contraddizioni, e in alcuni passaggi insomma ci è apparsa veramente poco chiara e a tratti anche truffaldina, e insomma spiegheremo perché. C'è sicuramente insomma una notazione generale, il fatto che secondo noi non è opportuno rimettere nelle mani dei legislatori, della politica, questo tipo di argomento e fare in modo che le popolazioni ridelegano a questi signori la capacità di decidere sui propri territori. E sono gli stessi che ti hanno fatto i danni, poi gli ridai la palla, cioè gli chiedi di legiferare sull'argomento, anche se con proposte magari avanzate, però chiunque, chi metterà la firma sulle leggi sono le stesse persone. Esattamente, e invece qui c'è necessità di partecipazione, coinvolgimento, impegno delle popolazioni per riprendere in mano le proprie sorti e le decisioni. Beh, solitamente questo tipo di iniziative, se anche inutili, quantomeno non sono dannose. In questo caso forse è il caso di aprire un attimo la legge e considerare che cosa c'è scritto. Eh sì, perché proprio sui famigerati impianti a biogas e a biomassa più di qualche contraddizione è stata notata. E le contraddizioni purtroppo non sono solo di natura tecnica relativa all'impianto della legge, ma poi si intrecciano anche con i proponenti di questa legge, che alcuni dei quali hanno le mani in pasta proprio su questi impianti, e quindi viene da sé la repulsione rispetto a questo tipo di iniziativa. E purtroppo non capiamo come alcuni soggetti anche di movimento ci stiano aggregando a questo tipo di iniziativa. Sì, leggiamo un attimo da Zero Waste chi è che ha partecipato alla riunione di Roma per la preparazione di questa legge, ed è politicamente composta da svariate, cioè abbastanza, da sigle anche molto spesso in contrapposizione a volte, ma chissà, in questo caso chissà perché non hanno ritenuto necessario distinguersi. Comunque abbiamo i Cobas Nazionale, abbiamo Lega Ambiente, abbiamo Fare Verde e poi Zero Waste Lazio, di cui andremo a approfondire. Quindi partiamo ad esempio da Fare Verde e vediamo chi sono. Sì, Fare Verde fa parte di tutto quell'associazionismo, quell'ambientalismo di destra che insomma è nato da una ventina di anni a questa parte. In particolare Fare Verde nasce proprio in seguito alle mobilitazioni contro il nucleare, cioè ha capito che in quel periodo, nell'86, insomma questo argomento tirava, e tra l'altro gioca anche su quest'idea che l'ambientalismo, l'ambiente non appartiene né alla sinistra né alla destra, retorica che molto spesso insomma loro usano per inserirsi nelle situazioni, e infatti quello che fanno poi è entrismo in quelle che sono assemblee popolari e iniziative popolari che si oppongono a ecomostri o questioni simili. Infatti è promotore della green economy, ovvero fa una critica al capitalismo diciamo classico, e poi però insomma non fa nessun tipo di lettura critica a quella che è l'industria della green economy. Infatti già in passato alla fiera di Ecomondo di Rimini Fare Verde aveva partecipato a questa promozione delle aziende green economy insieme a Lega Ambiente, WWF e Greenpeace, quindi gota dell'associazionismo, esatto, ecologista. Sì, cerca di intessere le relazioni più con le parole che poi insomma con i fatti, perché effettivamente non sono un gruppo particolarmente numeroso, però cercano di infilarsi in vari ambienti, lasciando da parte la loro esplicita matrice fascista. E infatti li troviamo anche in questa legge iniziativa popolare, loro appoggiano i rifiuti zero, e chi sta nelle assemblee immagino non si stupisca di questa cosa, perché se ricordiamo l'anno scorso a Riano, tra l'altro, anche Casa Pound tentava di farsi forte della mobilitazione che c'era contro l'ipotesi di discarica in quella zona. E va bene, quindi andiamo avanti con queste associazioni, andiamo alla seconda associazione, probabilmente più grande, almeno storicamente. Oggi non sappiamo quantificare esattamente il numero di iscritti, ma sicuramente più ammanicata. Sì, estremamente più ammanicata, Legambiente. Legambiente nasce anche lei più o meno nello stesso periodo di Fare Verde. Ricordiamo che Fare Verde, prima di Chernobyl, chiacchierava a Radio Radicale sulla possibilità di una strategia sul nucleare, salvo poi cambiare immediatamente idea dopo l'esplosione della centrale. Legambiente invece nasce a partire dai circoli ARCI, quindi in seno al PC, ed è quindi sempre un'associazione nata dal basso, ma nata da iniziative prese dall'alto per portare appunto all'interno del partito, aggiornare i quadri del partito su quelle che erano... Di quale partito stiamo parlando? Stiamo parlando del PC, poi PDS, DS, PD. Quindi stiamo parlando di più o meno questo tipo di legami, e quindi parliamo di un'associazione che appunto doveva aggiornare i quadri dirigenti e che ha sempre preferito i salotti buoni rispetto alle iniziative popolari, ed è entrata molto spesso in conflitto con moltissimi movimenti. Praticamente con tutti. Sì, possiamo ricordare Enoturbo Gas d'Aprilia. Ad Aprilia hanno già iniziato a trattare per le compensazioni. La TAV. Enotav sicuramente. Tant'è vero che Cementifici. Il circolo Valsusino di Legambiente è uscito da Legambiente Nazionale. Non sono sicuro se sia stato cacciato o sia uscito. Beh, come i dirigenti del Partito Democratico Notav sono stati cacciati dal Partito Democratico. Sì, parallelamente proprio. Quindi ricordiamo anche appunto le loro posizioni sulla combustione. Non si sono mai dichiarati contrari all'incenerimento dei rifiuti. Sul loro sito parlano di recupero energetico, quindi di incenerimento. Sono esplicitamente favorevoli alla combustione di monnezza nei cementifici, di CSS, che è una schifezza che va dai copertoni a qualunque altra zozzeria uno possa bruciare, nei cementifici dove poi viene mischiato col cemento. È un'associazione che ha svariati interessi economici. Infatti Legambiente partecipa per il 10% in Sorgenia Menovat, che è la faccia verde di Sorgenia, che dovrebbe lavorare per abbassare l'impatto ambientale, ad esempio, delle lampade o dei motori elettrici, ed ha anche le mani in pasta in A0CO2SRL, che è un'associazione che sponsorizza gli impianti a biogas sui territori. E qui, insomma, entriamo un po' più nel merito della questione biogas-biomasse. Proprio perché le ambiguità che abbiamo trovato nel testo di legge e in alcuni passaggi, in particolare l'articolo 14 e l'articolo 17 della proposta di legge, proposta di legge Zero Waste, che nel Lazio è strettamente legata ad alcune aziende. Esattamente. Allora, che cosa succede? Se noi abbiamo una proposta di legge che ha delle grosse ambiguità sugli impianti che hanno una capacità di 30.000 tonnellate e producono sotto un megawatt di corrente, guarda caso sotto un megawatt di corrente si prendono gli incentivi legati ai certificati verdi per la produzione di energia elettrica, e su questa legge proprio questi impianti non sono esplicitamente cassati, ma vengono cassati quelli più grandi, e guarda caso quelli più grandi sono quelli che non vengono proposti. La grande massa dei progetti a biomassa e a biogas sono impianti da 30.000 tonnellate sotto il megawatt di corrente, quindi è evidente la volontà di far passare questi impianti piccoli e la contribuzione pubblica ad essa collegata, insomma paro paro lo stesso meccanismo degli inceneritori, e poi magari dire no agli impianti più grandi. Una manovra truffaldina che va sicuramente svelata, anche alla luce del fatto che alcuni dei proponenti di questa legge, in particolare quelli legati al gruppo Zero Waste, fanno parte delle aziende che propongono questi impianti sui territori, tipo la Marco Polo S.p.A. In particolare uno degli esponenti di questa Marco Polo S.p.A. che sostiene questa iniziativa di legge è andato a spendersi a Gennazzano e a raccontare le fantastiche meraviglie di questo impianto alla popolazione di Gennazzano, che fortunatamente se l'è mangiato vivo, dicendo che questi impianti sono sicuri e che vanno costruiti, che non c'è pericolo, e quindi insomma è assolutamente da rigettare un'iniziativa di legge popolare che vede al suo interno anche le aziende che propongono gli impianti stessi. Sì, quindi seppure annunci il fatto che quella del biogas è una grande speculazione, appunto la proliferazione di impianti a biogas che è partita dopo i decreti di quest'estate, i decreti di Clini, che regalano al biogas appunto una grande quantità di incentivi, si recupererebbe il capitale in circa 5 anni e si avrebbero incentivi per 15. E invece comunque fa passare una nuova via di incentivazione a questo tipo di impianti attraverso i cosiddetti certificati bianchi, che vengono specificati nell'articolo 17, dove si dice che questi certificati bianchi sarebbero una tassa sulle aziende per il mancato vuoto a rendere, quindi l'azienda viene tassata per gli imballaggi che non vengono poi riutilizzati. E questo ammontare di denaro viene poi utilizzato per incentivare gli impianti che vengono considerati virtuosi per la gestione del rifiuto. Tra questi impianti virtuosi, guarda caso, ci sono i digestori anaerobici di sotto delle 36.000 tonnellate annue. E quindi, insomma, questa contraddizione pesantissima non ci fa altro che pensare che, insomma, questa iniziativa va rigettata e rimandata al mittente. E speriamo insomma di una revisione sostanziale. Speriamo anche un confronto con i compagni che abbiano iniziato a percorrere questa strada e che non si siano letti bene la legge, speriamo. Esattamente, anche perché poi proprio su il digestato, cioè il prodotto della digestione, la questione è ancora più fumosa. Si fa passare l'idea che il prodotto della digestione anaerobica di questo umido sia compost utile per fertilizzare i campi, quanto è noto a tutti che il risultato della digestione di questa frazione umida del rifiuto produce un rifiuto speciale pericoloso che contamina i terreni e che non deve essere assolutamente usato come compost, e quindi un'ambiguità e un pericolo veramente su scala nazionale, il rischio poi di ritrovarsi questo il prodotto della digestione anaerobica sparso sui campi sotto forma di fertilizzante. con il rischio invece di contaminare i campi. E in pianura padana questo meccanismo è già ampiamente documentato e la produzione e la resa dei campi sta diminuendo sempre di più proprio perché viene fertilizzato con questo residuo di del residuo degli impianti anaerobici. Sì, ricordiamo rapidamente, entriamo un minimo nel dettaglio. Una digestione anaerobica, fondamentalmente la lavorazione dei batteri sulle sostanze organiche, che invece di produrre anidride carbonica come risultato dà metano, in quanto i batteri iniziano a mangiare l'ossigeno delle molecole organiche. Ma oltre a mangiare l'ossigeno legato al carbonio, mangiano anche quello legato all'azoto, e quindi noi sappiamo che i nitrati sono ottimi fertilizzanti. Ecco, da un digestore anaerobico non escono nitrati, che sono i legami che l'azoto fa con l'ossigeno, bensì esce ammoniaca, che sono le sostanze che o in generale altre molecole organiche molto alcaline, che sono appunto sostanze in cui l'azoto si lega con l'idrogeno. Quindi anche avendo a monte una raccolta differenziata fantastica, che sicuramente non c'è, perché questi piccoli impianti vanno a trattare ciò che esce dagli impianti di TMB, quindi monnezza liquida e scarti di depurazione, fanghi di depurazione, quindi di tutto di più e chissà a Dio piacendo, e anche qualora questa cosa venisse fuori da una raccolta differenziata spinta, sarebbe uno spreco enorme, perché una cosa che potrebbe essere diventare compost di qualità diventa una zozzeria immane che avvelena il terreno. B, appunto, avremmo dei fanghi che sono tossici per l'ambiente e che andrebbero sversati chissà dove, magari in discarica. Sicuramente è questo. Quindi speriamo di essere stati chiari, ci torneremo su questa iniziativa di legge popolare così controversa che il 14 aprile prenderà il via, speriamo insomma che venga insomma rivista ampiamente nelle sue parti più critiche, e ricordiamo tutti gli appuntamenti, quelli di domani pomeriggio, quindi a Capua alle ore 15. No, a Capua alle ore 9:30, concentramento a Piazza dei Giudici, alle 15 ad Albano, 15 o 15:30 ad Albano a Piazza Mazzini. Esatto, e sempre per quell'ora alla fermata del trenino di Ponte Galeria, largo Domus de Maria, sempre alle 15:30 alla grotta, corteo fino alla discarica di Monti dell'Ortaggio. E quindi un saluto. There must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Torniamo ai microfoni con l'ultima notizia, anzi con gli ultimi appuntamenti, come stavamo discutendo con il compagno che ha chiamato da Capua, poi le complicità con l'università sono molto palesi, soprattutto per quanto riguarda le materie scientifiche, e a questo proposito andiamo a parlare dei prossimi appuntamenti organizzati all'Università La Sapienza. Sì, come assemblea di fisica abbiamo organizzato una serie di 4 seminari che sul tema dei rifiuti, e che analizzeranno il problema da un punto di vista sia tecnico, come scienziati ci interessa questo punto di vista, sia da un punto di vista chiaramente anche politico. Gli incontri sono 4, il primo è giovedì 11 aprile, e il tema dell'incontro sarà discariche ed impianti TMB, cioè impianti di trattamento meccanico biologico. e avremo come ospiti Aldo Garofalo, chimico, e Renato Sabelli, altro chimico, che ci parleranno di qual è l'impatto ambientale di discariche nel sottosuolo e nell'aria. Il secondo incontro sarà martedì 23 aprile sugli inceneritori, il terzo incontro sarà martedì 7 maggio su biomasse e biogas, ed infine l'ultimo incontro si terrà giovedì 23 maggio e riguarderà un pochino quali sono le prospettive alternative a quello che è l'attuale ciclo di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, e darà modo di fare una discussione complessiva analizzando quali sono stati poi i, diciamo, le tematiche degli altri incontri. Poi man mano gli appuntamenti penso che verranno ripetuti nel tempo. Sì, il sito di riferimento di questa iniziativa è officinafisica.noblogs.org e questo è l'invito ovviamente aperto a tutti i compagni e compagne che vogliano iniziare ad approfondire un attimo il tema rifiuti, e onde non cadere nelle mani di politicanti tecnicamente più preparati, ma che volendo possono utilizzare il nostro impegno anche anche ingenuo per i loro sordidi scopi. Sì, andiamo a chiudere. Ricordiamo che la trasmissione Impatto trasmette tutti i lunedì dalle 5.30 alle 6.30 nel pomeriggio, e vi lasciamo la linea al GR. Seppure la rete Zero Waste